24. La storia. River, oggi in uscita nelle radio di tutto il mondo, e loro sono David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters, la storica formazione dei Pink Floyd. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di una band che ha rivoluzionato il rock. 250 milioni di dischi venduti, indimenticabili concerti in tutto il mondo. I Pink Floyd hanno inventato sonorità nuove e rappresentato la colonna sonora della vita di milioni di persone. Un percorso artistico che ha portato tre studenti di architettura a sperimentare dal blues al rock psichedelico, dal pop allo space rock, con testi filosofici e esperimenti sonori che approdano a un sound inconfondibile. Il viaggio di questa band ha inizio nei primi anni 60 sull'onda della musica psichedelica arrivata da oltreoceano. È il febbraio 1967, i Pink Floyd entrano in studio per registrare il loro primo 45 giri. Il loro singolo Arnold Lane, scandaloso e originale, mostra tutta la capacità visionaria del leader del gruppo, Syd Barrett, pittore prestato al rock, fuori posto un po' ovunque, tranne che nel suo mondo. Ce ne parla Nick Mason, batterista dei Pink Floyd. La più grande qualità di Syd era di essere unico, di avere un talento speciale, proprio ciò di cui aveva bisogno un gruppo come il nostro. Sono gli anni 60, gli anni della Swinging London e di Carnaby Street. Sconfitti i fantasmi della crisi post-bellica, la città inglese diventa il faro della cultura e della moda giovanile, risvegliata sulle note del blues e del rock, il centro mondiale di nuove sperimentazioni artistiche destinate a cambiare la storia. I Beatles e i Rolling Stones inaugurano la prima British Invasion musicale nei locali più trendy alla moda di Londra. Di My Generation, migliaia di giovani urlano il loro rifiuto ai modelli esistenti per forme nuove che rompano con il passato, ed è proprio questo il clima che respirano anche tre studenti di architettura, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason. Quando nella loro vita irrompe un brillante studente di arte, Roger Syd Barrett, per loro tutto cambia per sempre. Sarà lui a trovare il nome del gruppo, ispirandosi a due bluesmen degli anni 30, Pink Anderson e Floyd Council. È il 1965 e sono nati i Pink Floyd. Il nostro obiettivo era di diventare un gruppo di rhythm and blues. Non eravamo certo partiti con l'idea di sviluppare un suono moderno psichedelico. Anzi, eravamo influenzati da tutti i gruppi più importanti dell'epoca. Band come i Rolling Stones, i Beatles, Jimi Hendrix e gli Who. Floyd suonano all'UFO Club di Londra nel 1966. Tecnicamente sono scarsi, come spiega il batterista Nick Mason, ma le loro sonorità sono davvero originali. Syd non era assolutamente un chitarrista tecnico, almeno non nel senso di poter scrivere un trattato o dare lezioni di chitarra, ma d'altra parte non lo è mai stato nessuno dei Pink Floyd. Credo che questo principio valga ancora oggi per gran parte della musica rock. Non basta possedere una tecnica fenomenale. Nel rock è molto più importante saper scrivere grandi canzoni. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Per il primo LP dei Pink Floyd, il genio di Barrett ritorna nel magico mondo della sua infanzia, dando vita ad un disco The Piper at Gates of Dawn, che si impone come primo disco psichedelico di quella stagione. Il tutto viene registrato nei mitici studi di Abbey Road, proprio mentre nella sala accanto i Beatles stanno ultimando uno dei loro capolavori, Sgt. Pepper. I Beatles hanno esercitato su di noi un'influenza fortissima, non tanto dal punto di vista musicale, quanto piuttosto da quello di ciò che saremmo riusciti ad esprimere in futuro. I Beatles hanno introdotto un concetto nuovo, hanno fatto capire che un album è importante almeno quanto un singolo, se non più importante. Era Nick Mason. Gli anni 60 non sono solo gli anni di sperimentazione musicale, ma anche di libertà, arte e droga per mettere a nudo l'individuo in tutta la sua complessità creativa. LSD è questa sostanza allucinogena a minare la stabilità psichica di Syd Barrett, che ben presto finisce per esserne sopraffatto, rendendo impossibile mantenerlo nel gruppo. A tentare più di tutti a trattenerlo nel gruppo è David Gilmour, chitarrista e amico d'infanzia di Barrett. Mix 24, la storia. Penso che il momento di maggior frizione sia stato quello in cui Syd e David Gilmour erano nel gruppo contemporaneamente e la situazione era scomoda per tutti. Bentornati a Mix24, era Nick Mason, batterista dei Pink Floyd. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di una leggenda del rock, la storia dei Pink Floyd. Alla fine degli anni 60, Barrett, leader del gruppo, viene emarginato per i suoi eccessi con la droga e i musicisti londinesi, come racconta Nick Mason, si trovano improvvisamente senza chitarrista, frontman e compositore principale. Quando Syd uscì dal gruppo ci ritrovammo improvvisamente senza il chitarrista, il frontman e il compositore principale dei Pink Floyd. In sostanza avevamo perso tutto, ma direi che quasi subito abbiamo trovato la nostra direzione ed è stata subito chiara. Il 21 luglio 1969 i Pink Floyd approdano sulla Luna, musicando in diretta per la BBC lo sbarco dell'Apollo 11, Moonhead. Producono poi il loro terzo album, Amma Gamma, che vola subito al quinto posto nella top inglese, consacrandoli tra le band più influenti. Ed è proprio dopo aver ascoltato questo doppio disco che Michelangelo Antonioni li vuole per il suo nuovo film. Zabriskie Point è una grande occasione per il gruppo inglese, che però si rivelerà molto difficile. It was more than difficult, it was impossible. Impossibile. Lo è stata per tante ragioni. Il fatto che lui avesse già un'idea in mente su ciò che voleva ascoltare fece sì che la musica che componemmo per l'occasione non fosse particolarmente originale. La seconda difficoltà era data dal fatto che Antonioni voleva mantenere il controllo assoluto sulla musica. I Pink Floyd registrano Atom Heart Mother, abbandonano le sonorità psichedeliche affidandosi a brani più morbidi, inaugurano la title track, un brano di ben 23 minuti che riempie l'intero lato A. La copertina viene affidata ad un grafico di eccezione, Storm Thorgerson. Nasce un sodalizio perfetto, destinato a fare storia. È un una notte del giugno 1972, quando Roger Waters si ritrova solo con se stesso tra sintetizzatori e mellotron. Comincia ad armeggiare con gli oggetti più disparati, creando rumori di marmitte, aeroplani, acqua e traffico. Poi afferra delle monete e mixa il suono con il battito del cuore. Quella notte, di fatto, iniziano le registrazioni di The Dark Side of the Moon. A parlarcene è il batterista Nick Mason. Oddio, non ho mai pensato a cosa rappresenti. Credo che sia semplicemente il battito di un cuore che sta a rappresentare un suono umano. Del resto, sotto molti punti di vista, l'album è piuttosto introspettivo, il che è in antitesi con la nostra immagine di gruppo spaziale. Non si trattava del battito di un cuore reale, ma di un ritmo ottenuto suonando la batteria in modo molto leggero. The Dark Side of the Moon trionferà commercialmente battendo ogni record e diventando un'icona immortale del rock. Dopo The Dark Side of the Moon avevo deciso di comprare casa. Andai dal direttore di banca dicendogli che mi serviva un mutuo. Lui mi chiese che cosa potevo offrire come garanzia, che io gli risposi: beh, ho un disco che è al numero uno negli Stati Uniti. La mia risposta però non lo colpì affatto, tant'è vero che mi chiese se non avevo da proporre qualcosa di più concreto. Non c'è un'unica spiegazione per il successo di The Dark Side of the Moon. Di certo il disco si basava su un concetto molto forte. I testi erano in un certo senso straordinari, perché pur essendo stati scritti da Roger molto prima che compisse i 30 anni, riuscivano a far presa sugli ascoltatori di 20, 50 o persino 60 anni. Una parte di ciò che lo rende così speciale e quindi sta proprio nei testi. Poi il tecnico del suono, Alan Parsons, che era una figura di punta nel suo campo, un perfezionista nell'assicurarsi che ogni strumento fosse registrato al meglio. E poi, naturalmente, c'è la bellissima copertina disegnata da Storm, che ha svolto un ruolo considerevole. Lo stile della copertina di The Dark Side of the Moon fu scelto da Rick. Fu lui a dire che non voleva una delle solite immagini sciocche che usavo sempre. Mi resi conto che l'ottavo album dei Pink Floyd richiamava la luce e le luci sceniche dei loro concerti. Ricordavo il prisma studiato a scuola. Io ci ho aggiunto soltanto uno sfondo diverso. Il prisma appartiene a tutti, ma il lato oscuro dell'immagine è solo dei Pink Floyd, perché è nero. Il grafico Storm Torgerson. Con l'album The Dark Side of the Moon, Roger Waters parla dell'alienazione dell'uomo sempre più solo in un mondo sempre più distante. So you think you can tell heaven from hell. Se nel 68 Syd Barrett è uscito dai Pink Floyd, con Wish You Were Here diventa palese come la sua presenza sia rimasta una costante nella vita della band. È una sequenza di note malinconiche nate dalla chitarra di Gilmour a scatenare una serie di ricordi. In inglese l'espressione Wish You Were Here si riferisce proprio all'assenza di qualcuno. Ero appena tornato dagli Stati Uniti, dove c'è molta gente che ti stringe la mano in modo molto cordiale, senza che questo significhi assolutamente niente. Per questo ho scattato una foto di due uomini che si stringono la mano in uno studio cinematografico. È un luogo di sogni. L'uomo che stringe la mano all'altro appare infuocato, perché in realtà non è reale. Cioè, questa leggenda, ma non è una leggenda, in realtà io a un certo punto l'ho intervistato David Gilmour, abbiamo parlato di quelle, di altre cose, alla fine ho detto Gilmour mi consenta, ma vorrei fargli una domanda, su uno di questi punti controversi della loro storia, dica la verità, ma è vero che mentre stavano facendo Shine on You Crazy Diamond, cioè che la più grande elegia dedicata proprio al ricordo di Syd Barrett, qualche anno non lo vedevano, si presentò in studio e Gilmour ha detto sì, è andata esattamente così. L'ho visto nello studio di regia, dove ero appena entrato dopo essere stato in studio a registrare alcune parti. Lui era già lì, ma non lo riconobbi. Dovete dirmelo Dave che lui era lì. Io non volevo credergli, ma poi guardandolo bene lo riconobbi. La sensazione che ho provato nel vederlo è stata allarmante. Sembra che ognuno di noi abbia una versione diversa di quel pomeriggio, ma al di là di questo è stata un'esperienza che ha lasciato il segno. Il giornalista Gino Castaldo e Nick Mason. Prima del loro grande successo discografico The Wall, i Pink Floyd pubblicano Animals, un album che denuncia la deriva degli uomini sempre più alienati dal capitalismo globale, un grido di rabbia di Waters che divide l'umanità in cani, pecore e maiali. Credo che sia stato il disco giusto al momento giusto, come hanno notato in molti. Infatti, proprio in quegli anni stava esplodendo la rivoluzione punk. E forse Animals è un album che riflette quella realtà, essendo un disco leggermente più semplificato rispetto a quelli precedenti. Sarà proprio questo maiale con le ali a diventare uno dei simboli del gruppo britannico, grazie ad una copertina surreale diventata protagonista di una delle campagne pubblicitarie più proficue della storia. È stato esilarante. Tutto ciò che poteva andare storto è andato storto, perché il maiale si staccò e andò a finire sulle piste degli aerei di Heathrow. I piloti lo videro e lo segnalarono alle autorità, che naturalmente non gli credettero. La notizia finì sui giornali nazionali e il manager dei Pink Floyd non stava più nella pelle. Neanche pagando avrebbe potuto ottenere tutta quella enorme pubblicità. Ma il grido di rabbia di Waters non si esaurisce con Animals nel nuovo album The Wall. Il bassista dei Pink Floyd è sempre più arrabbiato con la società che lo circonda e con i meccanismi economici che la governano. Non credo che Roger volesse veramente andarsene. Dico solo che l'idea di lavorare in un gruppo cominciava a stargli stretta. Infatti, per il disco successivo, The Wall, ci spiegò nei minimi particolari come voleva che suonasse l'album. The Wall è il canto dell'uomo moderno che costruisce un muro che lo isola dal mondo circostante, finché capisce la sua regressione e va in pezzi. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia dei Pink Floyd. È il 1983 ed esce un nuovo album, The Final Cut. Il titolo lascia presagire ciò che sta per accadere, la fine di tutto. Ma in realtà è la fine solo per Waters, che si sente stretto nei panni della rockstar e di lì a poco, nel 1985, dà ufficialmente le dimissioni dai Pink Floyd. Sì, sentivamo di poter dimostrare ancora qualcosa, anche soltanto il fatto che potevamo continuare senza Roger. Lui insisteva sul fatto che dovevamo scioglierci solo perché aveva lasciato il gruppo. Ma sia io che David eravamo convinti che non avesse nessun diritto di dirci cosa fare. Dal mio punto di vista, si escludono i concerti di The Wall a Los Angeles e a Londra. Gli show che abbiamo fatto senza Roger sono stati di gran lunga i migliori della storia di Pink Floyd. Dopo l'uscita di Roger dal gruppo, i Pink Floyd avevano bisogno di guarire. Per questo motivo avevano bisogno di letti di ospedale e non di letti di albergo. Ecco, i letti che utilizzammo erano letti di ghisa così pesanti che ci vollero 30 persone e mezza giornata per portarli tutti in spiaggia. Poi iniziò anche a piovere. Il tour che segue, Momentary Lapse of the Reason Tour, è se possibile ancora più mastodontico dei precedenti e verrà ricordato come uno dei più lunghi della loro carriera. Poi più nulla, fino al 1994, quando con The Division Bell i musicisti scrivono dei brani più intimisti. Le atmosfere dei Pink Floyd sono una garanzia di successo. Il lato negativo del primo dei due dischi è la nostra mancanza di fiducia durante la composizione. Eravamo alle prese con una possibile causa contro Roger e il risultato è stato che in A Momentary Lapse of Reason ci sono troppi autori. Con The Division Bell siamo tornati ad essere un vero trio. Abbiamo registrato tutti insieme e prodotto quella che considero una delle 10 migliori canzoni dei Pink Floyd di tutti i tempi, High Hopes. Hopes è un commiato perfetto, ma tutti aspettano che i Pink Floyd salgano nuovamente tutti insieme sul palco. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Nel 2008 muore a 65 anni Richard Wright, tastierista del gruppo e cuore della band, cui Gilmour e Mason dedicano l'ultimo album in uscita proprio oggi, The Endless River. David Gilmour e Nick Mason traggono ispirazione per l'ultimo disco dalle sonorità di The Division Bell, che cominciano a rivisitare nel 2013. L'album contiene un testo scritto da Polly Sampson, moglie di David. Il primo singolo in uscita si intitola Louder Than Words. È un brano strumentale che catapulta la musica di Pink Floyd nel XXI secolo. Pistolini, giornalista musicale che collabora per Il Foglio. Oggi esce in anteprima l'ultimo album di Pink Floyd. Stefano, alla fine della carriera è sempre un remake? Beh, qui siamo oltre la fine della carriera, qui siamo in una specie di post mortem più volte annunciato, adesso praticato, insomma, che ha dei ripensamenti che sono in parte ovviamente di ordine commerciale e in parte poi legato al fatto che una delle certezze che dal mondo della musica pop ormai trapela chiaramente è che chi l'ha fatto per tanti anni continua a farlo fino alla fine, perché in buona sostanza probabilmente non sa fare cose meglio di quella, è un modo per andare avanti, per esistere, per mantenersi e per sentirsi un po' parte dei quindi giochi. Cosa c'è di nuovo, se c'è, in quest'album? I Pink Floyd rimasti sono due dei cinque che hanno fatto parte della band originale. Sì, lo abbiamo raccontato. E uno è in lite, lo vedono solo in tribunale, insomma. Quindi quella che è rimasta è una grande suggestione, essenzialmente l'idea di risentire certi suoni in un formato nuovo con delle canzoni inedite o apparentemente inedite, e così dare, no, una prosecuzione a quello che è stato un fattore importante della l'album in uscita, Endless River, è un tributo a Richard Wright, scomparso appunto nel 2008. Qual era il suo talento? Ma è un tributo a Richard Wright semplicemente perché Richard Wright era uno dei tre che lo hanno inciso e che è morto nel frattempo. Gli altri due, in un certo senso, hanno dedicato al compagno scomparso, il terzo che ha fatto queste incisioni, il disco. Era il tastierista della band, era sicuramente l'uomo che aveva poi il marchio di fabbrica di certi suoni all'epoca assai progressivi, insomma, di tastiere elettroniche, adesso anzi quasi archeologici, però indubbiamente di grande fascino. Una delle cose che rendono il suono di Pink Floyd, hanno sempre reso il suono di Pink Floyd inconfondibile. Nick Mason, lo abbiamo sentito nell'intervista, dice che i Pink Floyd alla fine non avevano tecnica, ma è molto più importante comporre musica. È così? Ma io non credo che Pink Floyd in particolare non avessero o avessero meno tecnica nella media, insomma, di quelli che sono stati personaggi importanti della storia rock di quegli anni, soprattutto avevano il loro bravo quoziente di autoistruzione, insomma, come quasi tutti i musicisti di quel periodo, erano cresciuti suonando, o addirittura erano cresciuti artisticamente già famosi, quindi è una contraddizione. Diciamo, il periodo di formazione era stato molto breve. In realtà la verità di quello che dice sta nel fatto che con tanta tecnica o poca tecnica i Pink Floyd si sono inventati veramente un suono, e addirittura qualcosa di più, si sono inventati ciò che un suono riusciva a provocare, cioè come usare un suono per trasmettere, per provocare nell'ascoltatore delle emozioni, no? Una condizione emotiva particolare, sicuramente piuttosto inedita. Certo. Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones, la Londra degli anni 60-70 era un'esplosione di creatività e nuovi generi. Oggi qual è, se c'è, la capitale di questa creatività? La Londra di quegli anni è irripetibile. Oggi come oggi non c'è una capitale, la capitale ovviamente è virtuale, la rete, internet, dove tutto questo si scambia e viaggia. Insomma, bisogna distinguere fra un mondo analogico, no, di stare in carne ed ossa e edivismo, no, di cui in fondo i Pink Floyd sono ancora i rappresentanti, e tutte le altre band che hai elencato, che non a caso ormai sono fatte da gente anzianissima che sta ancora lì, si batte, molti sono morti, insomma. E poi invece tutto ciò che è il presente, che è contemporaneo, che circola non in una città ma circola nel mondo alla velocità della luce, grazie insomma alle possibilità tecnologiche, è tutto molto diverso, ma non è meno affascinante. Ma quindi ci sono i successori di questa mitica band o no? No, non ci sono, non ci sono. Non ha senso. Non ci devono essere. I Pink Floyd appartengono a tutti gli effetti a un'epoca, insomma, hanno inventato un suono, poi è stato imitato, seguito, ma sicuramente non è un'eredità da tramandare. Un gruppo per te del rock inimitabile oggi? Questa è una domanda da 100 milioni, non lo so. Non c'è. Uno per tutti, no, ci sono tante scene molto, molto interessanti, molto appassionanti. Cosa ascolti per avere una curiosità questa? Che cosa ascolto io? Ascolto oscuri cantautori della provincia americana o sperimentatori elettronici della scena inglese, ascolto roba vecchissima, ascolto i tedeschi degli anni 60 e anche molte cose italiane mi piacciono, sono un sacco di ragazzini sbarbatissimi, ma già molto, molto in gamba. Bisogna distinguere fra i monumenti, è come andare in un museo o andare a vedere una mostra d'arte contemporanea, bisogna distinguere fra i monumenti, i Pink Floyd sono uno di questi, e invece quello che succede tutti i giorni. Grazie a Stefano Pistolini. Mix 24 torna lunedì in diretta, come sempre alle 9. Un ringraziamento a Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.